Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Portiere! Non è sta grossa, sì, mia. Due volte. Prima di destra e poi di testa. Sì, avvocato, ma lei con l'occhio, ma che occhi, che occhi, via, non gioco più. Ho avuto, me l'ha chiamata, avvocato, via, lei ha... We'll be right back. si è aperta così quella che è la quarta parte di Eclectic. Si è aperta con questo brano, edito dalla TP Records, rilasciato all'inizio dell'estate e recuperato in Eclettica all'inizio della sua nuova stagione, appunto dopo che l'estate è passata. Era piaciuto parecchio questo pezzo, Holy Canyon Vanquish, da parte di Cloudland Canyon, e quindi mi è sembrato giusto andarlo a riprendere da Requiem Der Natur 2002-2004, e questo è il titolo del disco che ha aperto la quarta parte di Eclettica, il tutto ovviamente preceduto dal film della settimana che è il Fantozzi, il primo di tutta la serie. Ora un disco per la 5RC, lo dico all'italiana in modo che viene più semplice, ho avuto un attimo di indecisione su come dirlo, ma poi mi sono deciso in questo senso, che fra l'altro è l'etichetta degli XUXU o Shu Shu, come preferite, anche qua il tipo di pronuncia. The Birds in the Bushes, il titolo del disco, ed è a nome Inca Ore with Lemon Bears Orchestra. E se pensate che appunto è l'etichetta degli Shu Shu, capite come la proposta possa non essere delle più facili, e infatti state per riceverne immediata conferma. Si tratta di In the Garden of the Awakening Orchid. Ombra e sultana. Ombra dietro la sultana. Due donne, Agila e Isma. Il racconto che tratteggio delinea un duo peculiare, due donne che non sono sorelle e neanche rivali, benché l'una sapendolo e l'altra ignorandolo, si siano ritrovate mogli dello stesso uomo. L'uomo, per riprendere l'eco del dialetto arabo che si mormora nella camera. Quest'uomo non le separa e tuttavia non le rende complici. Una di loro, Isma, ha scelto l'altra per scaraventarla nel letto coniugale. Si è voluta pronuba del proprio marito. Ha creduto così, per ingenuità, di liberarsi insieme del passato d'amore e del presente fermo. Questo era l'incipit di Ombre Sultane, di Assia Jebar. L'evoluzione degli italiani Frankly Delano, che escono per Ghost Records con Come Home, dal quale ci siamo ascoltati la traccia numero 5, I Know My Way, un'evoluzione che l'ha portati assolutamente verso nuovi suoni. E non sono così nuovi, infatti risale all'inizio dell'estate i suoni che ci stiamo per ascoltare. Un album che avevo lì da un po' di tempo per la Lex Records da Oakland, il sestetto dei Subtle, dicevo, prima o poi lo trasmetto. Poi adesso mi è arrivata la notizia che in effetti esce For Hero For Fool, quello che è il loro nuovo disco ufficiale. Ho detto, beh, allora almeno un passaggio a questo disco di remix, di nuovi materiali così non completamente finiti, a questo disco devo dare spazio. E così faccio. Subtle and Back, questa è Farewell Ride. Thank you.

thought, hey boy, you should try. I never eat fruit, I only drink coffee. I can't sleep at night, I just stare outside. A wood made of plastic. Under my skirt, there's some sounds that swell. E con Miss Kenichi, che ho ampiamente presentato quando ho trasmesso come pillola nel corso della settimana, si chiude l'intera settimana di Eclettica con l'ultimo brano dell'ultima parte. Da Stoccarda ci siamo ascoltati da Collision Time il brano intitolato Under My Skirt, e invece in precedenza A Brighter Kind of Blue, il brano che è anche il titolo del nuovo di Norgarden, che si è tolto il nome Terry dalla ragione sociale, però è sempre lui, sempre per Stout Music. Fra l'altro, come ha lasciato scritto sul MySpace di Eclettica, sta anche per arrivare in Italia a novembre, e sicuramente ci sarà modo di ricordare, nel caso io riesca ad andare a vedere era una di quelle date, la sua prima esibizione qua in Italia, assieme a Paolo Benvenu, che lo accompagnava alla chitarra all'interno di Eclettica qualche anno fa, quando in Eclettica avevamo anche questi mini live, quando c'erano gli studi che ce lo permettevano. Per ora non possiamo farlo, chissà se magari in un breve futuro si potranno fare ancora queste cose. Giulio Caperdoni quindi è arrivato ai saluti, vi ricorda sia MySpace che Giulio @radiorockfm.com, e vi rimanda alla prossima.